Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi in Lussemburgo. Dunque, il vertice dei ministri dell'interno in tema di immigrazione tenta una difficile mediazione. Le posizioni restano comunque distanti tra i paesi europei. La Germania e la Francia hanno tentato stamani di spegnere le polemiche italiane sul futuro della politica europea nel campo dell'immigrazione. E riuniti qui in Lussemburgo per una riunione dei ministri degli interni, Berlino e Parigi hanno sostenuto con forza la proposta della Commissione europea in vista di una ridistribuzione di 40.000 asilanti arrivati in Italia e in Grecia. Hanno spiegato che l'arrivo massiccio di migranti sulle coste del Mediterraneo richiede solidarietà e responsabilità da parte di tutti i Paesi membri dell'Unione. Il ministro degli interni tedesco, Thomas de Maizière, ha spiegato che l'obiettivo della riunione di oggi è di segnare le grandi linee di un possibile compromesso, nella speranza di chiudere le delicate trattative nel breve termine. La Commissione europea ha proposto un meccanismo obbligatorio di ridistribuzione dei profughi. Molti paesi sono d'accordo, anche se alcuni rumoreggiano per paura di dover accogliere nuovi immigrati. La trattativa riguarda la chiave di ripartizione, anche se da più parti la speranza è che si giunga a un accordo in luglio. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. I paesi dell'Unione Europea avrebbero discusso l'ipotesi di tenere un vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo domenica prossima sul caso Grecia. Lo riporta oggi il Financial Times, citando due fonti, secondo cui questa possibilità è stata ventilata ieri all'indomani del nuovo stallo delle trattative con l'Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Tuttavia lo stesso quotidiano precisa che il summit non è affatto scontato, ma che anzi ci sarebbe una considerevole resistenza a convocarlo, dato che questioni tecniche come pensioni, tasse solitamente non vengono trattate a livello di capi di Stato e di Governo. Via libera della Corte di Giustizia Europea al programma OMT, vale a dire le transazioni monetarie definitive, annunciato dalla BCE nel settembre del 2012. È legittimo il cosiddetto scudo antispread, compatibile con il diritto dell'Unione, lo ha stabilito oggi dopo mesi di attesa la Corte di Giustizia Europea, secondo cui il programma di acquisto di titoli di Stato non eccede le attribuzioni della BCE di politica monetaria e non viola il divieto di finanziamento degli Stati membri. Il programma fa parte di quel famoso annuncio di Mario Draghi del 2012, faremo tutto il possibile, quando a rischio erano l'euro e l'Europa in mezzo alle difficoltà economiche, come spiega Donato Masciandaro, professore ordinario di economia politica con cattedra in economia della regolamentazione finanziaria all'Università Bocconi. Provare a utilizzare tutti gli strumenti monetari a disposizione per mantenere l'euro e in più cercare di mantenere stabile il suo valore. Ma la paura dei privati cittadini tedeschi ricorrenti era un'altra. Stampando moneta possa mettere a rischio il valore della moneta stessa. La Corte infine sgombra il campo, risponde che i trattati dell'Unione autorizzano il sistema europeo di banche centrali ad adottare un programma come lo scudo antispread, Germania compresa. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 14:05 minuti 17 secondi, Europa 24 vi saluta qui, Daniele Biacchese. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.